Siamo con Alice Rohrwacher, regista del film Lazzaro Felice, in sala oggi giovedì 31 maggio. Alice, ben trovata. Salve a tutti, ciao. Come lo racconteresti a chi ci ascolta? È un film da vedere. La storia, vabbè, il protagonista è Lazzaro, appunto, Lazzaro Felice. È un non protagonista per eccellenza, nel senso che è proprio l'uomo meno che farebbe di tutto per non stare al centro dell'attenzione, ma è felice di vedere gli altri al centro dell'attenzione. Invece in questo film al centro abbiamo messo lui, un uomo buono, e diciamo il film racconta l'apparizione della bontà nel mondo, prima in un mondo di un passato feudale in cui l'Italia comunque ha resistito fino al 1982 con uno sfruttamento dei contadini per opera di nobili, e in questo caso della Marchesa Alfonsina de Luna, e poi ritroviamo Lazzaro in un tempo postmoderno, nella realtà postmoderna. Quindi racconta il viaggio nello spazio e nel tempo di un uomo troppo buono forse per stare al mondo. Senti, come è partito tutto? È partito in realtà all'inizio da un desiderio forte di fare un film che raccontasse un'emigrazione domestica, quindi diciamo un racconto che raccontasse la fine del mondo mezzadrile e poi l'arrivo fino al presente di questa comunità di contadini, anche perché questa migrazione domestica nella mia idea poteva essere un modo cinematografico, però anche politico, per riportare il migrare a qualcosa anche nostro, e quindi diciamo l'immagine dei contadini che abbandonano l'inviolata, questo territorio dove è ambientata la prima parte del film, verso la città, è un po' l'immagine anche di tante migrazioni che vediamo ai giorni nostri. E poi però diciamo un racconto che era molto politico, perché comunque era raccontare in maniera fiabesca, in maniera bizzarra, in maniera strampalata, però raccontare i responsabili di questa diciamo fuga, perché comunque c'è stata una fuga dalla miseria, quindi responsabili di questa miseria, è diventato però un racconto, direi in qualche modo, di uno spirito, il racconto di uno spirito, di un modo d'essere nel mondo, di uno spirito buono. Questa storia del latifondo ha anche radici reali? Sì, la mezzadria in Italia è andata avanti fino al 1982, spesso io mi sono tanto confrontata con memorie di fine della mezzadria, dei miei vicini di casa, di tutte le persone che abitano la mia zona, e sembravano racconti che venivano da un altro secolo, ma in realtà vengono da 40 anni fa. Sì, sì. In particolare in questa storia, questa comunità di contadini molto isolata, la Marchesa approfitta del loro isolamento per tenerli ancora più all'oscuro dell'avanzamento dei tempi, e anche questa storia ha delle radici reali, più d'una, nel senso che casi di persone che hanno approfittato dei loro privilegi fino allo stremo ce ne sono tanti. In particolare questa marchesa fa proprio riferimento a una marchesa reale che, approfittando di un isolamento di alcune sue proprietà, invece di dire che la mezzadria era finita nell'82, ha aspettato, perché d'altronde i contadini hanno vissuto nella miseria per centinaia e centinaia di anni, e dal suo punto di vista lei ha detto: se continuo qualche altro anno, che cosa potrà mai succedere? La scelta del registro fiabesco? Il film è un film tanto reale, tantissimo reale, sì. Forse la realtà è un po' peggio, però diciamo... volevamo avere un passo fiabesco, perché forse solo la fiaba può raccontare anche con una ironia particolare il dramma della realtà, la tragedia della realtà. Quindi diciamo il film è un film anche buffo in certi momenti, però tragico. E non faccio un esempio, c'è una scena, tutti sappiamo che adesso i nuovi, no, si parla di nuova schiavitù delle campagne, immigrati clandestini che vengono fatti lavorare. Questa cosa andava in qualche modo messa nel film, perché il film racconta tanto anche il rapporto, l'evoluzione di un rapporto con la campagna, e quindi i contadini sono andati via, sono arrivati altri tipi di contadini, non proprio contadini, insomma, di persone che pur di lavorare, no, si trovano in quella situazione. Era, diciamo, è una scena quindi reale. Però noi l'abbiamo poi raccontata in un modo fiabesco, c'è una sorta di mangiafuoco, che è questo ex fattore che, come fosse un imbonitore della televisione, cerca di convincerli a lavorare per poco, un'asta al contrario, dove lavora chi accetta la sfida di lavorare per niente. A proposito di tragedie che citavi prima, il panorama è quello di una catena senza scampo, in cui dal primo agli ultimi degli ultimi ciascuno cerca di fregare il prossimo. Ciascuno cerca di fregare il prossimo, tranne Lazzaro. Tranne Lazzaro, chiaramente. Tranne Lazzaro, quindi ce n'è sempre uno che non però insomma è un panorama desolante. Sì, questo uomo che è l'ultimo di questa fila, nonostante venga sfruttato, nonostante venga utilizzato e sballottato in tutti i modi, e nonostante venga proprio divorato dalla società, quest'uomo però torna come qualcosa che ci ricorda un'altra possibilità degli esseri umani, cioè la possibilità dell'innocenza, forse qualcosa che nessuno può essere, ma di cui tutti abbiamo memoria, perché forse quando eravamo molto molto piccoli, per un attimo lo siamo stati. Alice, che uscita sarà? Il film esce un numero di copie che sta tra le 100 e le 120, mi sembra, oggi. Sono stati dei numeri un po', diciamo, erano imprevedibili in qualche modo, perché non si sapeva quanti cinema sarebbero stati a disposizione, perché ci stanno comunque dei film molto importanti in questo momento in sala, e quindi esce tra intorno alle 120 copie, e il più possibile, chiaramente, spero che riesca a fare le grandi città, ma io tengo molto alla provincia, anche perché è protagonista, con tutti i suoi attori, perché nel film hanno lavorato 54 contadini della provincia tra Terni e Viterbo. È proprio nella provincia che sono curiosa, diciamo, di vedere quali saranno le reazioni. Sì. E che anche, diciamo la verità, è che anche sono i cinema che vengono più trascurati dalla distribuzione, e quindi spesso io, che per prima abito in provincia, ho accesso veramente a pochi film da vedere. Sì. Quindi la mia speranza è che riesca ad arrivare un po', sia partendo dal centro, certo, come è naturale che sia, che però abbia una vita anche fuori dal centro. Sì. In chiusura, l'esperienza a Cannes, Alice? L'esperienza a Cannes è naturalmente sempre emozionante, sapere che è stata rinnovata questa fiducia ancora per una volta. I destini dei film sono strani, e quindi non si sa mai. Sembrare normale, si va a Cannes, ma invece dall'interno è sempre una grande avventura ogni volta, perché chiaramente il film dice di essere fatto quando viene mostrato la prima volta. Sì. Poi viene mostrato, continua a essere fatto ogni volta che viene mostrato, però quel momento lì è delicato, e quindi avere in qualche modo la fiducia di un festival ti fa, di un festival come Cannes, ti fa ti rassicura un po', è una specie di talismano, non so. Bene, allora ricordiamo Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, in uscita in sala giovedì 31 maggio. Alice, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. A presto, grazie.